Io comincio io sicuramente a fare una breve, a mettere insieme molto brevemente alcune riflessioni in un quarto d'ora e quindi con molte drastiche sintesi, il che vuol dire anche inevitabilmente con delle semplificazioni quantomeno nel linguaggio e nella formulazione. Perché penso che poi avremo forse occasione di discutere, di riprendere. Allora vorrei formulare anche qui piuttosto delle ipotesi di una ricerca da compiere che non dei risultati definitivi, vorrei formulare alcune tesi proprio strettamente connesse all'aspetto concettuale dell'impiego della nozione di codice nella cultura dell'Ottocento, con qualche brevissimo esempio che capiterà di volta in volta. I punti sono questi. Se noi, intanto, l'uso di questo termine, su questo potrà essere veramente rapidissimo, l'uso di questo termine nella scienza giuridica e nella storiografia italiana più recente. Tentativo di individuazione, direi per contrasto, già che mi sembra per l'appunto fortemente condizionato il tipo di uso che ne viene fatto. Sembra strano, ma dirò di più un momento, è proprio così. Un tentativo al contrario di individuare più esattamente l'area discorsiva nella quale si iscrive il dibattito sul codice nella fase, direi, primo ottocentesco. E qui sarà invitarmi qualche brevissimo accenno al sangue. E per poi passare viceversa qualche breve esempio italiano e indicare qualche caratteristica del caso italiano. L'uso nella scienza giuridica. Se per esempio noi prendiamo la voce codice di Nicolò alla metà degli anni 60, una voce che ho scelto come esempio perché vi compare una prima riflessione molto prudente, molto cauta, con molti distinguo, ma vi compare in sostanza un discorso critico sul codice. È uno dei primi interventi, tra l'altro molto autorevoli, si tratta in quel momento di uno dei maggiori civilisti italiani, c'è un intervento critico sulla opportunità o meno di proseguire sulla strada segnata dal codice. Se poi veniamo ad epoche più vicine a noi, quando questo discorso critico tra i civilisti è divenuto più frequente, pensiamo soltanto alla formula linguisticamente molto felice che ha avuto molta fortuna di Irti, l'età della decodificazione, anche lì ormai più apertamente si fa il discorso della necessità di superare il modello codicistico. Dunque c'è, a contrario, data implicitamente per scontata una idea di codice. Vale a dire, per codice si intende, se vogliamo prendere un secondo per esempio qui quello che dice Nicolò, un corpus il più completo possibile di norme precise e analitiche per tutti gli istituti della vita giuridica ispirate al rigoroso tecnicismo. Nella storiografia si può dire che, scelgo per esempio Astuti, c'è una definizione dogmatica sostanzialmente analoga. Codice, a differenza di raccolte legislative di età precedente, è quel testo che si caratterizza dal punto di vista giuridico dogmatico per alcuni requisiti: completezza, tecnicismo, sistematicità. Attenzione, questo punto della sistematicità mi sembra importante. Dunque, è pacifico per tutti, per giuristi in qualche e per storici del diritto, nonostante tra gli storici vi sia stata qualche voce critica, per esempio, conosciamo tutti il tentativo di Tarello, per esempio, di spostare il discorso sull'aspetto contenutistico. Del resto in questo punto ci sono delle osservazioni intelligenti, un articolo di qualche anno fa di Petrocchio. C'è dunque un modello dogmatico che affida, che attribuisce al codice queste caratteristiche che ho veramente appunto telegraficamente così sintetizzato. A riflettere più da vicino questa idea di codice, mi sembra si possono individuare le caratteristiche che la scienza giuridica di fine Ottocento, chiamiamola per comodità e per brevità quella pandettistico-positivistica, ha attribuito alla scienza giuridica. C'è qui una singolare coincidenza: vera scienza giuridica è quella che è sistematica, completa, capace di operare con un sistema chiuso, espansiva. Mi domando, siamo proprio sicuri che la nozione di codice che proviene da giuristi, quale un colloquio citato, quale, da storici, quali astuti che ho anche ricordato, tutti aventi una formazione giuridica strettamente radicata nella cultura che ho definito per brevità pandettistica, siamo proprio sicuri che non vi sia uno scambio, una interconnessione, una sovrapposizione, che non vi sia questa sovrapposizione, questa contaminazione nel modo di leggere l'idea di codice, collegandola, sovrapponendola, portandola a coincidere con l'idea che si hanno e coltivano di scienza del diritto civile? È una domanda alla quale mi sembra che pian piano si possa venir dando una risposta sostanzialmente affermativa se andiamo a guardare più da vicino dove e come si svolge il dibattito, per l'appunto in quale area discorsiva si svolge per davvero il dibattito sul codice ai primi dell'Ottocento, e quale è poi la vicenda concreta delle codificazioni. Da questo punto di vista, da questo secondo punto di vista, per esempio, è estremamente significativo il confronto tra il caso tedesco e il caso italiano, che sono apparentemente diversi. Dico apparentemente, vi sembrerà un paradosso, perché, anzi, sono vistosamente diversi, perché in Italia il codice c'è e in Germania no, per lungo tempo, e tuttavia mi sento di dire apparentemente, in quanto lo sbocco conclusivo dal punto di vista strettamente concettuale è stranamente vicino, è stranamente coincidente. Mi spiegherò su questa formulazione così perentoria. Intanto i giudizi, le ricostruzioni cui ho fatto riferimento collocano la nozione di codice dentro un'area discorsiva precisa, la nozione di fonte. Collocano i ragionamenti intorno alla qualificazione di questo elemento, di questo testo, di questo oggetto, quando parlano del sistema delle fonti. Serve per l'appunto a ragionare in termini di costruzione sistematica di un ordinamento che ordinatamente, scusate il bisticcio dei termini, si articoli appunto attraverso una serie di gerarchie, si chiama per l'appunto gerarchia delle fonti, la teoria che si costruisce a questo proposito. In realtà la mia impressione è che l'area discorsiva nella quale tutta la riflessione e il concreto operare nelle prime codificazioni non sia quella delle fonti, o non sia in via primaria. Tra 7 e 800 la questione codice è vista, è analizzata, è ragionata ed è discussa fondamentalmente in rapporto ad un altro problema, il rapporto al problema della interpretazione. È il rapporto al problema della interpretazione che si discute e si ragiona del ruolo, della funzione di questo tipo di oggetto, di questo tipo di testi. Naturalmente anche qui ho operato una drastica semplificazione, non si può certo sostenere a cuor leggero che non vi sia implicita una teoria delle fonti, ma quel che a me sembra è che comunque questa teoria delle fonti non è il fatto primario, no? Quello che preme non è costruire una figura dell'ordinamento la cui solidità, la cui consistenza, la cui efficacia sia garantita dal fatto che esiste una gerarchia tra le fonti. Si vuole costruire un ordinamento la cui solidità, consistenza, eccetera, e via elencando, si fondi e si regga sul possesso di una dottrina dell'interpretazione e di una pratica dell'interpretazione al tempo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che la tradizionale polemica teoria da un lato e pratica dall'altra si attenua di molto. Si attenua di molto nel senso che il nesso tra questi due aspetti è per l'appunto un nesso certamente problematico, ma non è un'opposizione, non è un radicale contrasto tra due elementi inconciliabili, come poi accadrà più tardi in molte letture. È uno degli elementi di una tensione che sta dentro un'area appunto di discorso costituita dal terreno della teoria e pratica dell'interpretazione. Rapidissimamente, già nella commissione legislativa tra Marville, Cambaceresi, eccetera, eccetera, si discusse molto, non poco, sul problema del rapporto tra diritto codificato, tra il nuovo codice che si andava a promulgare e, per l'appunto, il diritto romano, il diritto coutumier. Se ne discusse molto e mi sembra che risulti abbastanza chiaro che si ponesse con forza piuttosto il problema del coordinamento da operarsi sul terreno interpretativo che non quello della drastica, del drastico azzeramento e annullamento della tradizione preesistente. Se poi passiamo a quello che è il dibattito certamente teoricamente più ricco sul tema della codificazione agli inizi dell'Ottocento, e passiamo, voglio dire, a Sani, sul quale devo soffermarmi un secondo, a me sembra che, tra l'altro, proprio da questi alcuni corsi inediti che adesso ho pubblicato, mi sembra chiaro che il tema dominante è la scienza, la Wissenschaft, e la costruzione della scienza giuridica si traduca dal punto di vista dello sforzo teorico, metodologico, concettuale che Sani fa nel formulare sul terreno giuridico, scienza giuridica su questo terreno vuol dire possesso di un metodo di interpretazione, di una teoria dell'interpretazione. Qui allora, se così è, e tra l'altro ci sono, direi, dei punti di appoggio filologici, mi sembra forti, che possano autorizzare questa interpretazione, bisogna anche dire un'altra cosa. La polemica di Sani contro il codice da questi testi risulta predatata, non è una polemica che compare nel 14 nel Berusso. Le medesime formulazioni o una forte anticipazione delle formulazioni che troviamo nel 14 nel Berusso le troviamo in corso del 12, le troviamo addirittura in qualche appunto databile forse al 7 o all'8. Vale a dire, troviamo una maturazione che non è avvenuta sotto l'impatto della restaurazione, della polemica con Thibaut, dell'esigenza di provvedere a una ristrutturazione, ancora una volta, del sistema delle fonti. Ma la troviamo viceversa a datare da una data in cui non è certamente questo il problema, ma il problema di Sani che sta a Parigi nel 1804, nel 1805, che quindi presumibilmente guarda che cosa sta succedendo in Francia, ma pur venendo da un'altra situazione, quindi guarda con l'occhio dello scienziato, poco partecipi tutto sommato alla dinamica politica, gli interessa ancora una volta vedere come si inserisce una fonte nuova che efficacia ha nel costruire una teoria della scienza giuridica, vale a dire molto concretamente una teoria della interpretazione delle fonti. Che cosa succede in Italia se questo discorso va fin qui? Con la conseguenza, per chiudere il discorso tedesco, conseguenza che tutti sappiamo che l'autorevole intervento di Sani, unito ovviamente a ragioni politiche, ritarda lungamente la codificazione. Ma lasciamo da parte per un momento la Germania e torniamo in Italia. In Italia, in sostanza, in Italia la vicenda si svolge diversamente, si svolge tutto sommato con l'adozione dei codici già nella restaurazione. Chi li fa questi codici? Punto B. Come vengono utilizzati? A che tipo di letteratura sono sottoposti? Questi tre punti. Bene, se noi vediamo i compilatori, gli adattatori, vediamo che sono molto frequentemente, Il caso, per esempio, Parmense è uno dei più significativi perché per quella codificazione si parla di compresenza di modelli diversi, il modello francese, il modello austriaco. Un po' per tutti i codici, la storiografia italiana, la storiografia si è posta fondamentalmente il problema di quali sono stati i modelli. E va bene, la risposta è abbastanza rapida, è sostanzialmente il modello francese. Tuttavia, se vediamo ai compilatori, che sono più delle volte quelli che si chiamavano, con termini che assumerà un valore dispregiativo successivamente, dopo la vittoria, diciamo, della Wissenschaft, si chiamavano i pratici, per l'appunto sono questi cosiddetti pratici, per la maggior parte, coloro che provvedono al materiale riordino di questo manifesto. Portandovi che cosa? Portandovi una caratteristica tipica della loro formazione, del loro modo di procedere, della loro cultura, del loro modo di intendere la interpretazione del diritto. Una caratteristica che consiste nella commistione dei materiali, nella commistione degli elementi, nella commistione degli strumenti. Si è usato in passato il termine, anche qui negativo, di eclettismo. Io condivido moltissimo quello che ha detto stamattina Fioravanti, per l'appunto Maurizio indicava invece in questo modo di procedere una caratteristica intanto sicuramente italiana, ma molto verosimilmente una caratteristica che ha anche un'estensione maggiore che non sia soltanto l'Italia. Per esempio, come vengono commentati questi testi? La cultura dell'esegesi, si dice. Ma questo appunto mi sembra che sia chiaramente una formula oramai insufficiente. Se noi prendiamo materialmente questi volumi e guardiamo come sono fatti, come sono fatte le traduzioni, per esempio dei commentari francesi, come sono fatte proprio l'oggetto materiale libro che viene fuori, sono fatte a più piani. C'hanno il confronto col diritto romano, c'hanno il confronto con i codici precedenti, c'hanno il confronto con le legislazioni straniere, così. Vale a dire, usano in maniera abbondante, in maniera costante, in maniera continua, un metodo che potremmo chiamare, in maniera assai larga, metodo di comparazione, metodo comparatistico, purché a questo termine non assegniamo un significato rigidamente tecnico-giuridico nel senso attuale del termine, come del resto appunto anche qualcuno ha già segnalato in un'altra serie, Baldomero, per esempio. Ecco, perché questo metodo comparativo diventa, e questo metodo di commistione di materiali, questo metodo di sovrapposizione, diventa il metodo così diffuso? Perché la storia delle traduzioni, per esempio, testimonia esattamente questo, testimonia una circolazione diffusa che non è fatta di recezioni, che non è fatta di assimilazioni, che non è fatta di imitazioni, ma che è fatta appunto di contaminazioni. Testo, per esempio, tipico, quello che anche è stato studiato, quello di Zaccarini, che arriva tradotto in italiano dopo essere passato per la traduzione francese, che lo ha rimaneggiato e lì è cambiata la sistemazione. Dunque, ed anche qui si è detto tra parentesi, il problema poi è di vedere quali sono i ponti della comunicazione. Maurizio stamattina parlava della cultura tedesca che arriva in Spagna attraverso le traduzioni italiane. Noi italiani dovremmo forse guardare più attentamente alla cultura tedesca che arriva in Italia attraverso la Francia e attraverso le traduzioni francesi. Per concludere, che vuol dire questa inclinazione spontanea verso il metodo comparativo o comunque verso l'uso in qualche modo della commistione della comparazione? A mio giudizio vuol significare, e vi prego veramente di scusare la formula proprio tassativa e imperativa che adopero per concludere con due battute, vuole significare intanto l'esigenza di costruire in qualche modo, come dire, di costruire in qualche modo un corpus, quindi l'ambiguità della questione dell'interpretazione. Da un lato c'è il problema certo delle fonti, l'introduzione dei codici ha certamente colpito e duramente la tradizione del diritto comune, ha azzerato su questo terreno sì la tradizione del diritto feudale, che è elemento costitutivo e spesso troppo trascurato della tradizione stessa del diritto comune. Quindi c'è certamente un problema di fonti giuridiche e quindi da questo lato c'è il problema come dire, di creare un sostitutivo di tutto questo, creando in qualche modo un deposito di materiali al quale attingere, che svolga in qualche misura la stessa funzione che svolgeva in passato la tradizione del diritto comune, deposito al quale si attinge per continuare a elaborazioni e rielaborazioni. Ma dall'altro, insieme, forse più fortemente rispetto a questo elemento di costruzione delle fonti, messa a punto di un sapere giuridico, messa a punto di un sapere giuridico che abbia, che sia in grado di far funzionare delle, appunto, dei complessi legislativi di qualunque provenienza essi siano, e mettendo appunto di nuovo, ancora una volta, una teoria dell'interpretazione. Una teoria dell'interpretazione, vale a dire una teoria che consenta di proseguire per un verso secondo linee tradizionali a elaborare e produrre nuovi concetti giuridici, per un altro certamente a innovare. Perché, ritorno con un piccolo accenno adesso di comparazione con la Germania, perché a questo punto la storia italiana e tedesca si diversificano e dove invece in qualche punto continuano ad avere elementi in comune? Certo, si diversificano sul fatto che in Germania il codice non si fa, in Italia si fa, ma in Germania si farà soltanto quando la nozione di codice può essere assimilata, in qualche modo occupata, in qualche modo posseduta dalla nozione di sistema scientifico. Quando il sistema scientifico è forte, quando la scienza giuridica è in grado di costruire il sistema, può allora nascere un codice che nasce sin dall'inizio come strettamente subordinato ai quadri della scienza. Il sistema classificatorio, il modo, la teoria dell'interpretazione stessa del codice è rigidamente subordinata ai modelli di una scienza forte. In Italia questa scienza non è forte. In Italia questa scienza è sin dall'inizio segnata da una più marcata tendenza, come dicevo prima, alle commistioni, all'eclettismo anche minore. Non è in grado di subordinare sin dall'inizio il codice ai suoi quadri concettuali. Ha bisogno a questo punto di far funzionare l'intero meccanismo con un altro sistema, che non può essere quello della scienza. Questo accadrà soltanto molto molto tardi. E allora che cosa succede? Allora succede che mette in opera una serie di strategie di attacco aggirante, una serie di strategie che hanno ancora una volta per brevità di contaminazione, con le quali mette in opera insieme la giurisprudenza, il prodotto forense. Non si produce in Italia, in alcuni settori disciplinari, come il caso del diritto del lavoro, è più clamorosamente evidente, ma è anche evidente in altri settori. Non si produce una rigida gerarchia tra il contributo dell'avvocato, tra il contributo del forense e il contributo dello scienziato. Anzi, si verificano addirittura meccanismi rovesciati. Si verificano, per esempio, il meccanismo dell'avvocato, del grande forense, che è lui in qualche modo a portare e a governare e a guidare certi processi di elaborazione universitaria. Si verifica persino questo caso, che in Germania sarebbe assolutamente, totalmente impensabile. L'avvocato in Italia, fino ad una certa data, conta, perché è in grado di portare, oltre ad una esperienza dottrinale di diritto romano, di qualche diritto comune, eccetera, eccetera, è in grado di portare i risultati di una elaborazione che è capace di aggredire la nuova situazione degli ordinamenti molto di più di una scienza che rimane debole e che non è in grado di sostituire i propri quadri, come invece pare stia accadendo in Germania, almeno a Stalin in volta. Spero di essere stato chiaro e non eccessivamente semplificante.